Mario, quello di essere vicino a lui stesso, dai, diciamo, quello della bretella. Io ho capito, Mario Massa. Mario Massa, sì, non mi veniva il nome. Bene, bene. Ma tu come mai in questo periodo un po' assente della frequenza? Non so, stai parlando, Giulio. Con Gianni, doppio room, sto parlando. Ah, non arriva qua. Gianni, sentita Claudio. E mettiti un antennino sopra il tetto, Gianni, e vedrai che funziona. Mi piace più la 27, adesso chiaramente. Io vorrei riattivare la 27. Ma se nessuno entra, il problema è quello. La 27 lo so, è sicuramente migliore. Ma se nessuno entra, ieri sera sono rimasto io, Gianfranco e questo Claudio di Porto Torres, tutta la sera, ma a livello di 2 ore e mezzo, 3 ore, beh, non è entrato un'anima. Solo per un attimo, per salutare, è andato via subito Emanuele. E poi Emanuele l'ho ritrovato poi verso le 8, quando abbiamo chiuso, sul 10, l'ho trovato alle 8 sul 23, per dirti, no? E se non entra la gente, cosa ci vuoi fare? Adesso stiamo usando molto il PMR. Lo so, è a periodi, dai, è a periodi. Poi passa la voglia di usare il PMR. Se te l'ho letto, io non ci sto entrando, perché c'è sempre il portante, non lo so con chi ce l'hanno, boh. Ogni volta che c'è questione mettono la portante, Giulio, ho capito? Per quello ci siamo trasferiti qua. Non ho capito, Cla. Ti faccio la ponte. Ha detto, ci siamo trasferiti qua in PMR, perché c'è sempre qualcuno continuamente che insiste a mettere la portante su 10. Chissà chi è quel pellegrino che mette la portante, no? Capito? È quello. Non ti sente, Claudio? Ti ho fatto la ponte io, o Gianni? Sì, lo so. Anche quando entravo io me la metteva la portante, infatti mi stava passando la buglia. Ma è sempre la stessa, è quella che arriva a 9.30 con la porta. Ah, questo non lo so, io sinceramente qui quando qualche volta l'ho notata questa portante arriva bassissima. Ma se è a 9.30 vuol dire che è lì vicino a te, questo non ci sono dubbi. Per cui, boh, non so cosa dire già. Però non è quella persona, quel pinghinoso come tutti quanti lo chiamano, in effetti ma hanno ragione che è pinghinoso, questo sì, d'accordo. Però non è lui, ti posso garantire che non è lui, perché lui Baracchino non ne ha, ma non da adesso, già da anni non ne ha, il calzolaio non ne ha da anni il Baracchino, perché l'aveva bruciato e io lo so benissimo, capito Gianni? Questo sì, lui dice che si deve seccare, è vero, quello è vero. Purtroppo hanno questa mania, chissà chi è questo pellegrino o questo imbecillotto che non fa altro che mettere portante quando... A me sinceramente non me ne dà fastidio, perché essendo lontano evidentemente da lui qui arrivate tutti e per cui non c'è problema. Avanti qua. E Claudio deve essere che è andato a portare il cane, perché adesso sta arrivando la pioggia verso dove abita lui, per cui allora ne sta approfittando, avrà portato adesso il cane. E capito già? Allora fai così come ti ho detto, prendi tu un antennino, te lo metti sopra, così con una staffa a bandiera, basta una staffettina da niente, attaccata al tubo, all'altezza stesso della casetta, non c'è bisogno di metterla alta alta, e così ti sentono anche da quella parte là. Però la staffa già piazzata, la staffa, basta che sbollo il bullone, ne ho una attacca al muro. Infatti, c'è già tutto pronto, cosa ci vuole? Non ci vuole niente. Se l'attacchi e basta, così evitiamo anche di non si farsi sentire. Io fortunatamente, ad esempio, se io mi sposto da qua, anch'io avrei problemi, ma io ormai conosco la posizione dove devo rimanere e dunque va bene, mi sentono e sento tutti. Ma se mi sposto da quella posizione, guarda, se io esco fuori da questa stanza, no, allora il problema diventa un pochino difficile ascoltare e soprattutto farmi ascoltare. No, io sono col gommino adesso, sono col gommino, ma ripeto, io mi sarei voluto anche spostare, ad esempio scendere giù nel piano di sotto, Perché sono costretto a rimanere sempre nel piano alto, perché se no non mi sente nessuno già. Se io volevo ad esempio, se volessi scendere per dire, non so, in salone oppure nella tavernetta, non mi sentirebbe nessuno, perché lì è in basso. Sono qua, riesco, è da questa posizione, perché mi sposto un metro, è capace che poi non mi sentono nemmeno, capito? Eh beh, lo sappiamo com'è, questa frequenza lo sappiamo com'è, no? Ma tutto sommato, comunque, puoi fare anche un antenino tranquillamente, te lo fai tu tranquillamente, sai cosa prendi? Prendi uno di quelli PL da pannello, quello quadrato che ha i quattro buchi nell'angolo di quel PL, e ci metti quattro pezzettini di... da 18 centimetri, 17 centimetri, da 17, 18 centimetri a tipo Grand Prix, e una centrale te ne metti, sempre intorno ai 18 centimetri, metti l'adattatore all'apparecchietto e moduli tranquillamente, non c'è problema. E quello è il fatto che bisogna farlo anche bene, capito? Oppure ti compri direttamente un'antenna della Diamond, una X30 ti puoi comprare, che costa 1,20 m, sarà 1,30 m, non di più, e ci sono tre radialini, e ti piace quella attaccata al palo stesso dell'antenna, a bandiera, te la attacchi e funziona lo stesso, quella funziona VU, capito? Ma te la piazzo io, come? Ti do una mano a piazzarla. Ripeti, già ti hanno chiamato. Chi mi ha chiamato? Non ho sentito nessuno. Gianni. Chi è? Avanti. Luca. Avanti chi chiama Gianni. Gianni. Avanti chi chiama Gianni. Gianni. Non sei uscito. Come non sono uscito? Se prima di tenere la parola, non si è sentito e basta, non hai continuato. Cazzo, non sto uscendo, ma state scherzando. Chi è che non sto uscendo? Dici che non sto uscendo. Sì, già era una di 60 indizi. Luca. E ya. Guarda che Gianni ce l'ha l'antenna, gliel'ha data a Franco di Sosso, nuova, da mettersi sul tetto. Luca Cecilia. Hola. Ma Gianni non sente nessuno proprio. Andiamo. Mi devo fare un po' di gioca. Luca Maglio. Bobo, te casino. Chi sei, Giulio? Luca. Gianni. Allora già mi senti, sì. E adesso ti ho sentito, secondo come posiziono l'apparecchio. Chi sei? Luca, già. Stavo dicendo, ma te, Franco, non te l'aveva dato un'antenna nuova? Sì, già me l'ha data, non rende, l'ho trovata e non... Ma non è quella... È uguale a quella di coso, di Marco. Di Marco chi? Cosa? E allora? È lo stesso modello c'ha Marco Condor, la CX446, No, per me è sicuramente era difettosa quell'antenna, oppure? Sì. E andava più quella di quella lì, di quella che mi ha toccato. Non andava, batteva di più liscia. Poi non lo so cosa è successo, me l'ha buttata giù il vento, boh, non lo so. Non lo so visto più a trovare. Perché tu comunque... Se piace la bevi sul tetto. Ma di quella più? E basta farla una, già sono semplici da fare queste antenne qua. Sì, perché tu sei schermato parecchio lì, capito già, da calcestruzzo. Luca calcestruzzo! Luca è... Ciao Flitterone! Attenzione la frequenza, Breco! Avanti, aiuta, Breco, avanti! Ciao Giulio! Luca! Ehi! E con questa non va? Ho cambiato antenna, Sì, io ti sento. Aspetta, sono più no. Gianni. Ciao Tino. Ciao Giulio. Ma Gianni non mi sente forse, boh. Sì, che ti sente. Sei tu che non senti a lui. Gianni, mi ascolti? Sì, effettivamente va meglio quella di Luca, eh. Dica. Sì, però ti sentivo meglio con l'altro. Aspetta che cambio, dai. Datemi. Prendetevi un controllo, boh, un attimino solo, dai, che cambio l'antenna. Ma Giulio, no, c'è qua Giulio, vai Giulio. Eccomi qua, Giulio, con questa c'è differenza? No, avevo abbassato il volume, devi provare, perché avevo abbassato il volume, perché ho sentito qualcuno che era il 27 che ha chiamato, e poi ho chiamato io e non ho risposto, meglio Baedo, riprova dai, così ti dico come va. No, stavo provando giù la un'antenna, capito? Ma se va benissimo, io ti sento benissimo, non c'è problema. Sì, ma volevo fare una prova con una e con l'altra, perché questa è una piccola direttiva, piccolina, capito? Prova, io sono qua, non c'è problema. Via. Gianni, prova a parlare. Sì. Ah, vabbè, allora niente. Perché Giulio, tu arrivi sempre allo stesso segnale, quindi credo che non cambi niente, la differenza non c'è, dai. Ah, perlomeno non ho notato nessuna differenza nel tuo segnale. Ok, io ho portato lì a 30 euro, non faccio niente di particolare. Per cui è sempre quello. Poi tra l'altro mi è anche caduto per terra ed è sparito tutto il display, non si vedono più i numeri del display, si può immaginare. Infatti me lo voglio ricomprare nuovo, perché mi interessa che veda anche i numeri del display. Anche se questo funziona lo stesso, però non ci sono i numeri e sono al buio praticamente, là. Ho capito, dai. No, volevo fare una piccola comparazione tra una e l'altra per vedere qual è la sua famiglia di antenna. Ma stando al controllo che ti posso dare vocale, non c'è differenza, mi sembra uguale. Per cui va bene così. L'illuminazione del LED qui è uguale, così, pieno, proprio a piena luminosità. Poi per il resto non ti posso dire niente. Non ti posso dire niente perché, ripeto, non c'è il display e dunque non posso leggerlo, il segnale che arrivi. Ehi, allora, per dirti la verità, poc'anzi ti ho sentito con un segnale, anzi ti ho visto con un segnale più grande, e adesso invece mi apri solo lo squelch. Non ha cambiato niente, Dio, però se metti la direttiva puntata su uno di noi, e come segnale dovresti arrivare più forte, non ci sono dubbi, cioè dovresti arrivare e sentire anche meglio, però bisogna vedere, se la metti per dire su Gianni magari non la metti su di me, ecco qual è la differenza, il problema è quello. Sai che vi attacco il trasponder, usate la mia antenna. No, sai cos'è, Giulio, che io l'ho puntata presso a poco verso la Latte Dolce, quindi magari non lo prendo in pieno, prendo un po' a te, un po' a loro, capito? Ah, ok, ho capito, sì, beh certo, no, ma va benissimo, non c'è problema. Sentite Claudio cosa ha detto, Sì, usate il trasponder, dai. Allora, io vi attacco il trasponder, usate la mia antenna, arrivate da tutte le parti, 100 watt, e vamo già alla playa. Se credi sta quarantena fra 5 minuti, io sto andando a portare il cane perché c'è un'aria nera che sta arrivando da Alghero, si vedono i fulmini in lontananza, una cosa spaventosa. Oh, a me mi sta facendo da Santiago 2 a Santiago 9:20 con le 45. Non sto dicendo, un casino. C'ho scariche elettrostatiche che ho già spento tutto, adesso spengo anche questa. Vediamo, se vi sento col portatile va bene, se no pazienza. Non ti sente, no? Non hai sentito Gianni, Claudio? Non arriva per niente qua Gianni, no, non arriva per niente, ha provato un sacco di volte, lo sento un pochino, se si mette nella finestra, boh, forse del poggiolo, non lo so, da qualche parte, ma non arriva, non ce la fa salire il segnale qua su, capito? Sicuramente c'è qualche muro, perché gli altri li sento tutti, coi portatili arrivano tutti. Per forza tu sei in salita, Senti, ma tu anche sei in salita e sei anche più lontano di lui, ma arrivi benissimo. Scusa, io gliel'ho detto, quando abbiamo montato l'antenna c'era una staffettina pronta, mettevo un'antenna antennino da 20-30 centimetri, lasciava il cavo che c'era, quello di discesa della Mantova, e lui arrivava da tutte le parti. Intanto questa frequenza oramai la utilizziamo tutti, siamo più qua che là. Bene, esci che mi chiudo la finestra che sta per piovere, dai, ne sta per scendere l'aria. Ehi, dimmi, avanti. Ma io ci sento più forte del radio. Segnale non te ne posso dare perché, ripeto, il mio display non c'è più, perché quando mi è caduto per terra si è rotto il display e dunque non accende più. Per cui segnale proprio non te ne posso dare. Però la radio mi sembra più forte, un tantino più forte di prima. Capito? Sempre con Gianni stai parlando, Giulio? Sì, perché dice che ha messo un qualcosina, non lo so cosa ha messo, e voleva sapere se stava arrivando meglio qui da me. No, boh, qua non arriva per niente, né cosina né cosetta. Evidentemente non ce la fa salire il segnale, ci vuole un'antenna sul tetto. Dai, vado a portare il cane che sta per piovere, ci sentiamo dopo, Giulio, ciao. Ok, ciao Cla. Un antennino caricato, ha detto Gianni che ha messo un antennino caricato, e invece non arriva ugualmente da te. No, non arriva per niente, ci vuole l'antenna sul tetto per arrivare qua. Evidentemente c'è qualche ostacolo che bisogna che arrivi con un'antenna esterna, altrimenti così non ce la fa. Dai, ci sentiamo dopo. Ok, d'accordo, Cla, a dopo, dai. Sì che ti ascolto, io ti ascolto bene, molto bene ti ascolto già. E adesso perché ti è sparito? Io ti sento benissimo lo stesso, guarda, il radio ti sento benissimo. Te l'ho detto, il segnale non te lo posso dare perché il mio display non funziona più. Per cui, questo portatilino, anche se è un portatile da 30 euro, però il segnale me lo segna, perché ci sono le tacche, ci sono, in origine ci sono le tacche. Però adesso mi era caduto da sopra il comodino, avevo le cuffie, mi si è agganciata il filo delle cuffie, mi si è agganciata e è caduto per terra. L'ho raccolto, ho provato, funziona, però non accende più il display. Per cui non so niente, né numerazione, niente. Sì, no, sì, sì. Cosa hai detto Gianni? Non ho capito. Cosa hai detto Gianni? Sì, beh certo, quando se devo utilizzare la tastiera, utilizzo la tastiera, utilizzo. Poi non so come sto uscendo, se sto uscendo a 1, a 4 o a 8, questo non lo so, però lo spengo, lo riaccendo e faccio il numero della frequenza con la tastiera, no? E così funziona, però non leggo niente. Ad esempio, se voglio bloccare anche la chiave per non avere qualche incidente con le mani, toccare un altro numero e partire di frequenza da un altro posto, non lo posso fare, non lo posso vedere perché c'è sempre il display spento, capito? Questo ha tre potenze, ha già. E quello lì, il GT3P. GT3TP. Oggi hanno fatto anche l'altra versione, per questo qui è il 2, questo qui è il GT3TP2, adesso hanno fatto il GTP, cioè GT3TP3 hanno fatto, e dovrebbe essere anche migliorato un pochino, ma comunque è la stessa cosa, non cambia niente. Io ho un U5R. Quello è 5, quello è 5 watt, capito? Invece il mio ha 3 potenze, 1 watt, 4 watt, 8 watt. Sempre da questa, in basso, in fondo, alla tastiera, l'ultima fila dei tasti, sulla destra, guardando il portatilino, c'è una chiave, c'è disegnata una chiave, c'è disegnata. Io schiaccio quello e posso spostare il watt. Poi nel display esce HL, se ricordo bene, insomma escono tre sigle, una di queste è 8 watt, l'altra è di 4 watt e l'altra di 1 watt, però io non lo vedo adesso, non so quanto sto uscendo, capito? Dunque non posso leggerlo perché non si vede più niente, è spento il display. Sì, io sto dalla casa, allora oggi costa intorno ai 40-42 euro, questo costa, dai. L'altro giorno lo stavo guardando al computer e costa 42 euro, Poi oltretutto io ho la batteria, quella rinforzata da 3800 mAh, perché l'originale è da 1800 mAh. Poi avevo preso la batteria a singola parte e poi ho anche il microfono manuale, ho tutto. No. Insomma, diciamo che è bello, è come apparecchietto è bello. Per la cifra che costa è veramente ottimo, veramente. E tre ne ho io, Sigle, tre potenze. Io guarda, ce l'ho e... Poi se tu hai un watt e 5 watt, basta. E io penso che sia così da te. UVR5. Cos'hai il GT? Ma come mio è? Allora in basso schiaccia la chiavetta, perché guarda che c'è quello che fanno da 1 watt e 5 watt, poi c'è quello con la versione che fa 1 watt, 4 watt, 8 watt, poi c'è un altro ancora che fa 1 watt, 5 watt, 10 watt, poi c'è un altro ancora che fa addirittura 18 watt. Ti puoi immaginare, ce ne sono diversi, insomma, devi guardare il computer e te ne rendi conto e uno si sceglie quello che vuole. Appunto, tre lettere, quello H, quello lì è quello più forte, l'altro è LV, mi sembra, low, o come si legge, non lo so, e l'altro med, boh, una cosa del genere. Quello H è quello più forte di tutti. Quello lì è più forte di tutti, 8 watt. Sarebbe questa qua la posizione, guarda, 1, 2, 3, pronto. Stai uscendo bene, così stai uscendo bene. E poi non ce l'hai il rosmetro che ti può segnare anche l'uscita, non ce l'hai. Prova col rosmetro, se ti segnala l'UHF, il rosmetro tuo, io ce l'ho. Io l'ho controllato e quei vatti le dà, quei vatti le dà. Se devo controllare ok. Va bene, dai. Io me lo voglio ricomprare perché questo così senza lente non mi piace, la verità. Senza il display, dai, non mi piace. Anche se funziona lo stesso, però non mi piace. Attento Giulio! Sì, avanti! Sì, Tino, quello del gommino, dalla finestra però. Va benissimo Tino, va benissimo, non c'è differenza dall'antenna, non c'è nessuna differenza del radio. È sempre uguale, stessa potenza, il LED quasi illumina tutto. Ripeto, il segnale non te lo posso dare perché il display non funziona, come ti ho detto poc'anzi. Prova a dire la differenza. Sì, indietro dalla finestra non ti sento, neanche non riesco a... No? Sì, adesso sì, ma un po' più... Qua arrivi, qua arrivi bene, segnale 5T. Oh, tre posizioni qua, non lo so più. C'è H, L, F, prova. Adesso è migliore. Sì, Claudio, ti ho sentito. Vabbè, sono affacciato alla finestra che mi sto guardando il panorama che proprio ne scende l'aria. No, qua sta già piovendo forte, ci sono fulmini e tutto, ho lasciato solo questa accesa. Qua arrivi segnale 5, diciamo Giulio è 3.5, 4, tu sei 5. Ok, continuo a non sentire a Gianni. La zona, Claudio, non ti devo lasciare, va bene, dai. Io vi saluto che vado a portare il cane che va in imparare l'aria, dai. D'accordo già, allora, ci sentiamo domani, fatti sentire, alle prossime, dai. E fra un po' anch'io mollo e devo andare a cenare perché sono già le 8:15, per cui siamo già vicino all'ora della cena. Avanti ti. Ehi, dai, no, era giusto una prova, stai prendendo bene. Io quello che ci sono con il tuo, Giulio, di visione, sono nel passo. Ok, ma è da parecchietto cosa è? È il GT3. Come quello che ho io, quello giallo, con le fiancate gialle. Ok, sì, è così. Anch'io ho quello, No, vanno bene, vanno. Peccato che mi è caduto, mi si è rotto il display, però. Ma già me lo ricompro. Non c'è problema. Sì, perché mi piace vedere anche le funzioni, no? Perché posso aumentare ad esempio, questo se io rimango un minuto con la portante schiacciata si stacca da solo. Però potrei, volendo, con la regolazione, avendo il display, posso aumentare anche i tempi. anziché stare un minuto, per dire posso mettere un minuto e mezzo, due minuti, capito come funziona? Sì. Questo è così, e penso anche il tuo. Ok, ciao T, grazie, allora da chiacchieratina ci sentiamo, sì sì, va bene così, d'accordo, dai. Avanti Gianni, per salutare a Tino. Ciao Giulio, se stai chiudendo, dai, anch'io stacco tutto perché sta arrivando veramente un temporale. Ci sentiamo domani, ciao a tutti, buonanotte. Ok, ciao Clara, domani, dai. Ciao a tutti, chiudo. Va bene. Stacca le antenne, Mettino, è la corrente. Già fatto. Io non so se ci arrivo col portatile, ma posso sempre provare, dai, altrimenti ci sentiamo dopo, però qua è tutto spento. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Cipollino, Cipollino, Gargamella, Ugariello, Ugariello, Ugariello, staccate le antenne che arriva il ciclone, attento ciclone, Gavino ciclone sono, Tino, Gavino ciclone sono, ah mi senti, Tino, non ti accoppio, non ti accoppio. Pronto? Ehi, a Germano, Gavino ciclone sono. Dove stai andando? Ah. Vabbè, vai a prendere in fretta che sta piovendo qua. Piovendo, sacra. Ehi, a te, qua sta arrivando il temporale d'Alghero, ma l'ha detto, eh. Capito? Domani, domani però dovrebbe essere bella giornata. Venerdì è il casino. Sì, Anto, sta piovendo qua, nelle alture di Carbonazzi, sì. E c'è a vedere la finestrella. No, e non che fulminenti, eh. Infatti ho spento tutto, ho staccato le antenne e c'ho solo questa accesa. Ma fra un po' intanto vado a mangiare, spengo tutto e attacco, stacco il salvavita. Così siamo a posto, gappa. Ma questa come c'è ancora collegata con l'antenna grande? Io non ho chiesto il cazzo tutto. L'antenna di Guaracchino, mi aspetti che parlate insieme a Antonio Bombolo, non ho capito niente. Cos'hai detto? Aspetto. Ha detto che ripassa. No, arrivati uguali, non capisco niente. Cos'hai detto? Ma tu sei in macchina. Allora, sono quasi all'uscita di casa, ciao. Verso verso l'uscita di campagna. No, no, arrivi bene, arrivi bene. Dentro la stradina ti sento frusciato, ma qua arrivi benissimo. Andare, io non lo sento Antonio, dai. Ciao Antonio, se mi ascolti. Uè, ciao, chi sei che non ti ho riconosciuto? Io non lo sento qua, Comunque, ciao, ciao. Come non mi senti? Mi senti adesso? Ma che sei, Tino, c'è? Tino, non ti sente che è in macchina, tu? Questo passaggio mi è arrivato forte. E anche qua, perché è in macchina, adesso sicuramente si mette lì nella britella e lo senti bene. E cappa, nella britella sta andando. No, sono la discipola del Ruccio ora, qua. Alle rocce sì adesso, no? E stai arrivando bene, stai arrivando benissimo alla grande. Quando esci nella strada arriverai ancora meglio. Ma tu cos'è, col Baofeng? Ehi, ehi, a te. No, no, ma già arrivi bene. Quando ti metti nella strada arrivi bene, perché arrivi già bene così. Sì, Anto, col portatilino, col portatilino. E quello uguale al mio. Ma tu, il tuo cosa misura? Il segnale misura? Anto, io sto andando con una radio, non sto andando col portatile, no, io sto andando con l'820H della ICOM, base, 100 watt, non ce li ho 100 watt, ce l'ho 5 watt adesso, ma sino a 100 watt posso arrivare, l'SM20. Ho capito, ma il segnale è buono, è da qua, un po' scarsino. A volte arrivi uno, a volte arrivi due, a volte sei senza segnale, capito? Tino ha fatto un segnalone poco fa, è arrivato a 7-8. Dove siete? Qua adesso sono a fianco al rifornitore. 5, sì. Segnale 5 e radio buona. Onde da maniano. È tutto un radio, sì. Boh, tu sparisci così, ma faccio che sia andato. Mi ha sentato, qua, perché dovevo spiegare delle cose. Mi ho staccato tutto, anche l'antenna 27, direttive, balle varie, già messo lo staccantenne, ho lasciato solo questa VEU e basta. Poi dopo stacco anche questa, perché se no stanotte è un casino. Se la paga, non è valzeva. Ehi, niente di questo, non facciami, non è che... Adesso ho visto che sta sentendo, vero? Ma a me mi ha preso di striscio, qua la pioggia ancora non sta piovendo, quindi... Ma la pioggia non è un problema, Tino, è il temporale, che sono i fulmini sono molto bassi, molto molto bassi, capito? E quindi bisogna stare attenti, e sono molto vicini perché io li vedo dal poggiolo lì nella zona di Ossi, Tisi, Uri, Usili, belli chiari, capito? E quindi bisogna stare attenti, per quello le stacco, se no non me ne affutti nuda. Ma io giù stacco salvavita e boh, non do tensione neanche, chiudo il commutatore, quello elettronico, su, metto il relè a zero, quindi non passa niente, però è meglio sempre staccare tutto, capito? Ma dice che a Sorso c'è stato un folgore, così è? Solamente l'altra volta, di nuovo come l'altra volta. Una bomba d'acqua ha fatto un casino nero, ieri è toccato a Castelsardo, ha fatto un casino nero, capito? Quindi bisogna stare attenti a questi temporali di passaggio che fanno un sacco di danno. Ebbene sì, dai, qua zona Pisa, diciamo, dai. A voi ti sento, Tino, mi senti? Ah, adesso sì, vedi. Ciao. Ciao Tino, già se ti sento bene, a voi. Va bene, adesso sono zona Bretellina. Zona Bretella, c'è anche Antonello Alessio, Antonè. Ma quale finocchio? Questo finocchio. Campone, non ti ascolto, aiuto, attesa le antenne. Aspetta. Mi, adesso ti ho sentito, ciao Antonè. Antonè, e di Antonello, Ocla. Lo so Antonè, infatti. Io le antenne... Quelle a nominio le ho staccate, c'è solo questa, la 510, che non è pericolosa. Ma le altre le ho staccate, tu c'hai la direttiva e quindi staccala, hai fatto bene. KK, dove sei arrivato T? Sì, qua all'uscita della Bretellina, andando verso Città Mercato, che adesso non è più Città Mercato, Dove andai, Muttino? Catta, Bobo, dove stai andando, Catta? Ma però... Ma che tu mi senti, Bobo? Accidenti! E andiamo, chi è te, Bobo? Ciao Lugarie, c'è anche... Coso... Ginko, ci sei? Attina, già la sento, siamo vicini. Sì, non arriva benissimo in macchina. Ma ti, perché non avete una base magnetica piccolina e te la agganci quando esci? Ah, che tanto, per la gente che c'è, per l'attività che stiamo facendo, per carità. No, qua già ci siamo, e stiamo parlando più qua che là. È divertente qua, non ci sono rotture di balle, capite? L'altra lì era una passata importante, il 27, che non ti dico, ma lascia perdere che... Cosa è la battante qua? Cosa, Antonio, che non sei uscito, cosa hai detto? Non sei uscito di radio. Ah, addio, tutto è fasciato. Non stai uscendo di radio, Antonio. Ah, non sei tu. Allora è qualche altro che non sta uscendo di radio. Cosa hai detto, Manuel? Che ho trovato in culo il sabotante. Ah, bello bè. Pensi non ti abbia riconosciuto? Ah? Oh, ma che pone le bostante? Sei uno che ha le antenne grandi come le mie, capito? Allora, cazzo è fondo la scala, no? Che qua? Mi hai sentito a me? Senti? Andiamo passi qua, è qua a fondo della scala. Sì, sopra nella collinetta di via Baldetta, Ma vabbè, se questo è il divertimento che ha, lasciamo fare. Io sto entrando a casa, ciao. Per radio, perché lui voglia fare radio, non ne ha, e allora rompe i coglioni. Vai. Io ho capito chi è. E beh, vedi tu, perché non ho capito chi è. Siccome è una persona grande, ne ho vergogna di fare nome e cognome, capito? Però, che divertimento, cazzo. Come hanno distrutto tutto il resto, adesso vogliono distruggere anche questa, per carità. Lascia di stare, Rubino, che ti fate male. E... ma quindi è una persona che beve pure? Eh sì. Quindi è un ubriacone? Eh sì. Chi è questo uomo, ma è così? Eh sì, Tino, sì. Dà fastidio, capito, che moduliamo qua, come le danno fastidio tante altre cose. Lascialo va, lascia, se no fate il beccio. Vabbè. Perché non ti sei cercato di grassa, mi? Fai assolutamente niente, mi. Ci sei che la canna. Sei convinto di fare qualche cosa? A me non mi fai proprio nulla, capito? A me non mi fai proprio assolutamente niente. Io sento tutti e non c'è nessun problema. Quando dici brucia il veicolare, non hai compreso? Come è un latte dolce, il caportante? Guarda, subito si... Non è latte dolce, non è latte dolce. È vicino a te, ma non è latte dolce. Se arriva a fondo scalacca ti copre proprio, copre tutti. Ehi, non è la latte dolce, ma è, te lo dico, ti mando un WhatsApp, aspetta, dico chi è. Ah, che bello i tuoni, questa ora. C'è la parte di oggi, lo sanno. Poi c'è la parte di tutti, perché... Ti faccio un senso. Pensa che la voce del telefono l'ho sentito. Ah, che l'ho sentito anch'io. C'è la conferma. Bravo, complimenti. Rispondi al telefono e lascia il microfono calcato. Ciuccio. Sì, continua poi a voltare, continua. Mi hai deluso veramente, complimenti. Visletti, poi a voltare riprendere il telefono, manco una volta ci ho compreso, care. Ruia, non avevo dubbi, Ruglioni, cazzo. Hai sentito la voce, oh Luca? Sì, lascia vacla. Ho chiamato a Tiro, cazzo, sto mandando una, in un punto, vediamo un po', aspetta. Io sono di Mike Wayne. Cazzo, cazzo, oggi sta facendo aria. Oh, sì, sì, sì. Cazzo mi passa tanti fusi. Vale, mi senti? Sì, no. Te me l'hai letto il messaggio su WhatsApp. Passa di là dove ti ho detto, vai. Vale, sono quasi a casa. A tutti i dì. Capito, lui. Già lo so chi è quello che c'è lì, ma non è lui, è l'altro che c'è più avanti. Intanto 24 ore è cutendi, capito? Fa criticare gli enti. Odì non parlo da chi fa. Odì la moglie non se la vuoi furrare, sta alla radio. Ma... adesso non te ne mette più. No, che esco, che ti trovo, che sto il punto, non cattiglie. Cazzetti con due voci, non è che sto lì a perdonarti, no. Figli già faccia. Sarà bravo Anto che non ci arrivi a prendere la schiaffia a faccia, che è due volte di te. Ti pone la faccia in culo, mi ti pone. Sei più alto di un abbuddoio. Lascia perdere, fai la bravo, ma futti dini. Già ci arrangiamo per i cazzi nostri, non ti preoccupare. Ok, Tino, dove sei arrivato? All'altura di casa, mi sono entrato così, quasi a casa. Sentiamo loro. Lascia perdere. di che è embriaco, cla. Vabbè, c'ha un vizio. C'ha un vizietto. Speriamo che se lo tolga, cosa vuoi ti dico? Comunque. Si spiace perché. Siamo in regola, ce l'hanno assegnata questa tibiasia, non tibiasia, e io ci sono perché sono un CB, e come CB devo usare tutte le bande che mi assegnano, hai capito, coglioni? Quindi confermi che sei coglione? Buonanotte a tutti, allora ci buca di più di tempo con questa gente guasta. Sa solo un importante il buco. Ciao, buonanotte. Non ricordi chi è lui? Non mi interessa proprio sapere chi è, là. Niente così non mi interessa, non mi interessa. Sì, figurati che non ti interessa a me. Peccato che vadano a sporcare anche questa frequenza. Non hanno altro da fare. Peccato. Non diciamo altro da fare, là. Non ha altri hobby, là, viene qua a rompere. Ciao a tutti. No, ti posso assicurare che ne ha tanti hobby ed è anche bravo nei suoi hobby, capito? È che c'ha il vizio che è contrario alle cose che fanno gli altri sempre. No, me ne può fregate meno, cla. Ciao, buonanotte. Addio, buonanotte. Avanti, Antò. Sì, Tino, ti sento anche da casa, non c'è problema. Eia, buonanotte. Buonanotte. Comunque, basta fare la bruva, io non ti mando nessuno. Non so, quello punto di macchine vi canta arrivi. Ehi, ehi, Anto. Ti ho detto di fregartene di fare da bravo. E boh. Fini in nera, già. È tutta roba di passaggio, non ti preoccupare. Poi voglio conoscere il bassone, a chi tu gaggio. Turrato vicino, è un gaggio, finila. Lo sa che tu finila. Amico, lascia perdere, io sono più mancante di te. Sì, ma tu non è mancante, già è sano di gabbo, non ti preoccupare. Ma di mancantesimo ne ho più di lui, ne ho. Sì, di mancantesimo ne avevamo un bel tutti, hai compreso. Forse ne ho più io di te, però me ne sbatto le balle, vivo e lascio vivere. Invece c'è molta gente che vive ma non lascia vivere, è lì il problema, vivi e lascia vivere. Adesso che motivo c'è di entrare qua, mettere la portante, disturbare? A cosa serve? Non serve a niente, serve solo a rompere le palle alla gente, tutto qua. Se niente guasta, cosa vuoi fare? Niente guasta, non è guasta da giudizio, c'ha delle motivazioni non valide, sia per la 27 sia per tutte le cose che facciamo, capito? Quando loro o lui ne ha tanto da fare, quindi potrebbe occuparsi dei cazzi suoi invece di rompere le palle alla gente. E vabbè, lasciamo le cose come stanno. Va bene, va bene, non c'è problema. Comunque è nella zona, già lo so io dove lo sa anche Luca, non c'è problema, va bene lo stesso. Tanto paghi subito seguito a Brianto per fare due chiacchiere. Continuiamo a farle. E beh, piovendo salire a te. Ma no, non ne sento acqua qua. Magari qualche goccettina. C'ho la finestrina chiusa. Si apre a vedere. Un pochettino di cosa c'è, di aria, di vento, dai. Ma c'è energia in chiesa. E che pugile. Ecco qua. No, adesso non sta più piovendo, però c'è una passata di tuoni, di lampi, allucinante, ragazzi. Allucinante, infatti adesso queste le spengo e mi attacco il portatilino. Capito mi hai, Gappa? Gappa, e io penso che io sono convinto di una cosa, ma non ci voglio credere che sia quella persona lì. No, non ci arrivi mai, Anto, lascia perdere. Non fate mai nomi perché è sempre difficile. Io lo so perché lo so, capito? Io lo so perché lo so, e boh, non mi interessa dire niente a nessuno. Poi quando capiterà vuol dire già mi arrangio io, non c'è problema. Sì, ma uno può avere le sue idee, ma non è che vai di sul ballastre, no? Scusami. Ma infatti ognuno ha le sue idee, però dico, non serve a niente disturbare le idee degli altri, tieniti le tue idee. È vero che non entri, che non parli né qui né nella 27 eccetera, tieniti le tue idee, ma non andare a distruggere l'operato degli altri, che non serve a niente. Tieniti le tue idee, è una cosa che a te non piace, non entri, non vuoi ascoltare, non ascoltare, ma siccome so che ascolta tantissimo e quindi va bene. Scappa. Ma che hai fatto un cazzo pure da una bassa una manna, dovrebbe capire, dovrebbe, cioè, a me mi pare che il più pulito c'ha la rogna, cazzo. Bravo, bravo Antonio, hai visto che sei anche intelligente, il più pulito c'ha la rogna, capito? C'ha la rogna, pensano di fare chissà che cosa, di avere chissà che cosa. Io CB sono, CB voglio morire, a me dell'urretra non me la futti nulla. Quello che ho sempre detto che me l'ho preso perché mi serve per la mia sicurezza. Paro un letto, me ne può fregare di meno, capito? Per non dire una parolaccia. Ma appunto, ognuno fa quello che vuole, il domani possa essere CB, il domani possa essere un'altra cosa. Tanto, ma dopo che ha già cusciato, non è che mi piaccia tanto l'altra parte, però vogliamo fare i professionisti, faccio i professionisti. Io non, cioè, io ritengo che sia più qua una cosa più saggia, poi ognuno la pensa come vuole. Infatti io non obbligo nessuno e non me ne frega niente nessuno. Ognuno con la cosa sua fa quello che vuole e la usa come vuole. Io le radio ce le ho, le uso come pare piace a me, capito? Però io so le mie motivazioni e quindi mi tengo le mie motivazioni, gli altri che si tengano le sue. Perciò questa è una frequenza PMR canale 7 che ci hanno assegnato ICB, quindi la licenza del baracchino ce l'ho e quindi posso parlare anche qua. A chi non le piace si mette un sacco in testa e si ammazza. Ma appunto, appunto per quello. Ma io guarda, non so com'è andata di sui bar, non per balla nessuno a mettere portata. A me mi piace parlare, mi piace, del più del meno. Mi piace parlare. Ne avevo uno, Dio mio santo, meno male che me la sono tolto dalle palle. E già lo sai, care. Cazzo, proprio a fondo scala. Cioè, un giorno sono uscito quel manganello che te lo vuole ammazzare a colpi. Cioè, se lo trovavo in quel momento che te l'avevi cotto. Cioè, perché mi ne ha fatto saltare veramente le cervella. Meno male che non ce l'ho più adesso. Sono qua e non arrivi più così. Mai visto tanto l'altro giorno, eravamo rovescio 10. È entrato Gianni, portante a tutto andare, poi sono entrato io lo stesso, mettevo la portante in ricezione, poi la mettevano sopra Giulio, poi sopra quell'altro. C'è sempre, e sono sicuro che è sempre la stessa persona. È sempre la stessa persona, tu, non è che cambia molto, capito? Però io le radio ce le ho e perciò c'ho i portatili, c'ho un piccolo veicolare, me lo sono organizzato e parlo, capito? Minchia, bello sta. Cazzo. Andare a prendere mia figlia al lavoro alle 10, che l'ho detto, lascia stare la macchina, ti accompagno io, vengo a prenderti io, capito? Vabbè, Antonio a drono, ciu ciu. E qua non sta più tanto. È tremendo, no, adesso non c'è più. Ho trovato tu, l'avrei sentito, Niente. Si è entrato anche Antonello. No, non le fa niente, io ho l'antenna piccolina, una X30. L'altro è tutto staccato, è tutto. Ma è. Ai te, oppa! Avala quello che c'è! Vediamo che non c'è. Lì dove c'è a carbonati dove c'è dove c'è le. Il trasformatore di tensione, la pulizia, se no siamo senza luce tutta la notte, non puoi. cazzo è quello che era sceso nella cabina qua di via Lamalfa, non aveva idea, dura colpa a me. La mia, le mie direttive hanno attirato il fulmine, che vive che hanno i cazzo. Andiamo alla resta. Meno male che ne sono uscito pulito, cazzo io attiro il fulmine, ma voi siete matti. Danna rete ho fatto, hanno rimborsato anche a me 1500 euro, che mi ha bruciato tutti gli elettrodomestici. Ha fatto strage qua nel mio palazzo. Siamo rimasti più di 6-7 ore siamo rimasti senza luce. Infatti mi si è scongelato il duttro, il freezer, tutto. Mi ha bruciato il radio, l'FT1000, 1940. Mi ha bruciato, ma ha fatto poco di danno. Il computer, alimentatori, lavatrice, scaldabagno, il forno elettrico esterno, tutto mi ha bruciato. Sì, chiaro. Era tutto capo da che dovevo dire in terra, non dovevo dire qui. È già la seconda volta che è capitato una cosa del genere, quella che ho trovato. Lo prende in piena, lo prende. Scarica, si pulisca. E meno male io sotto casa, nel garage, apparentemente c'ho il trattatore di tensione, c'ho. E vabbè, io c'ho il coso, il accumulatore, dai, quello che quando manca la luce l'alimentatore è attaccato lì, tipo quello del computer, e c'ho un'ora di autonomia e boh, poi si chiuda, perché è piccolo, capito? Quindi niente, ho continuato a trasmettere, però poi avevo spento tutto perché non c'è la luce a casa. Si è inserita la luce di emergenza e boh, quindi era meduta robuccio, capito? Avanti Anto, lo senti a Antonello? Sì che lo sento Antonello. Di qua sta tornando ma non sta piovendo però. Adesso sta piovendo qua. Sta piovendo lì a Carbonate. Qui sta piovendo adesso, mi gocce, che non te lo dico nulla, adesso. Qua sta nevicando a Ottava, ciao Claudio, ciao Antonello, ciao Bombolo. Avanti Claudio. Milami leva, Milami arrivi da leva. Cazzo, anche la Marina arrivo, ciao. Forse è chiaro, lo dico come Claudio, Claudio arriva sparato. Sento, tac, di nuovo da Claudio. Però tu sei quasi vicino, avanti Claudio. Sì, ma è arrivato il temporale, fulmini e pioggia, Antonè, stai attento, vabbè, tu sei, io sono con l'antenna esterna e sono alimentato, vai Marì. Ci sentiamo, vi saluto tutti e spengo. Ok, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao Claudio, tu devi cambiarlo, ci sentiamo. Avanti Antonè. Pure qua, temporale forte adesso, sta arrivando. E farendo un po' gudeva. Qui dal me. Basta che non apri le finestre. La gravale, che vi tu. Fiorellino. Ebbene Fiore, buonasera a tutti, Cappa, bianco per me, dai, ce la risentiamo domani, ciao ciao. Ciao Bombolo, a domani, ciao Ney. Avanti Antonè. Ciao Bombolo, a domani, ci sentiamo, buona notte. Sarà. Ok, io 2 minuti, tanto che mi devo chiamare. Avanti Fiorelli, ti sei ripreso? Sì, ripreso, Mari, lascia perdere, per carità, sono tutto messo male. Sono tutto messo male, povero me, cazzo. Ok, visto, ho detto che mi devo chiamare e mi hanno chiamato. Vabbè, ci sentiamo domani, Fiorelli. Ciao Antonio, domani, ciao a tutti, saluto del soltone, curati per me, ciao. Ehi, mi stacco anche io, dai. Ciao Antonello, ciao Marino, ce la riascoltiamo, dai. Ciao Ginko, il bazzato. Ciao Antonello, sentiamo, dai, che chiedo anch'io. Che è passata le buste, no? Carbonate, Mi è arrivato, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho det